Libro 3. La rivoluzione delle donne. Capitolo 1. Il Parlamento si raccolse nuovamente il 25 ottobre 1911 e la prima mossa da parte del governo fu a dir poco infausta. Il primo ministro presentò due mozioni, la prima per dare al governo la possibilità di prendersi tutto il tempo alla Camera per il resto della sessione e la seconda per troncare la discussione sull'insular Bill, in modo da forzare l'approvazione della misura entro Natale. Un solo giorno fu destinato alle clausole relative alle donne all'interno di quel progetto di legge. Si trattava di clausole notoriamente inique: fornivano un'assicurazione sulla malattia a circa 4 milioni di donne, mentre a nessuna donna aspettava un'indennità di disoccupazione. Secondo le disposizioni del progetto, 11 milioni di uomini erano assicurati contro la malattia e circa 2,5 contro la disoccupazione. Le donne ricevevano meno benefici per lo stesso premio assicurativo degli uomini e i premi corrisposti al di fuori del reddito familiare venivano accreditati unicamente sui conti degli uomini. Il progetto così concepito non dava inoltre alcuna forma di assicurazione alle mogli, alle madri e alle figlie che passavano la vita in casa a lavorare per la famiglia. Penalizzava quindi le donne che restavano a casa, che per la maggior parte degli uomini è l'unica sfera d'azione legittima delle donne. Il progetto modificato concedeva malvolentieri, oltre agli assegni di maternità, una piccola assicurazione, a condizioni particolarmente complicate per le mogli dei lavoratori. Quindi la prima dichiarazione alle donne da parte del governo riletto fu di assoluto disprezzo e fu seguita il 7 novembre dall'incredibile annuncio che il governo intendeva nella prossima sessione presentare un progetto di legge sul suffragio degli uomini. Questo annuncio non fu fatto nella Camera dei Comuni, ma una delegazione di uomini della People's Suffrage Federation, un piccolo gruppo di persone che promuoveva il suffragio universale degli adulti. La delegazione, che era di natura molto privata, fu ricevuta dal signor Asquith e dall'allora Master of Ely Bank. Il portavoce chiese ad Asquith di introdurre una misura del governo per il suffragio universale degli adulti, incluse le donne adulte. Il primo ministro replicò che il governo aveva promesso agevolazioni al Conciliation Bill ed era in quel contesto che si era preparato ad affrontare la questione del suffragio femminile. Ma aggiunse, nella prossima sessione, il governo intendeva presentare e far passare, attraverso le dovute fasi, un autentico progetto di riforma, che avrebbe spazzato via le esistenti distinzioni per il diritto di voto, sostituendole con un unico requisito di residenza. Il progetto si sarebbe applicato soltanto agli uomini adulti, ma era strutturato in maniera tale da poter accogliere un emendamento sul suffragio femminile nel caso in cui la Camera dei Comuni avesse desiderato proporre quell'estensione, quella modifica. Quell'infausto annuncio giunse come un fulmine a ciel sereno e sollevò dure condanne nei confronti della slealtà del governo verso le donne. Il Saturday Review scrisse: «Senza alcuna richiesta, nemmeno l'ombra di una richiesta, di dare più voto agli uomini, e con, al di là dei cavilli, una fortissima richiesta di dare il voto alle donne, il governo annuncia il suo Manhood Suffrage Bill ed elude accuratamente l'altra questione. Nessun governo batte questo quanto a puri e dichiarati brogli». Il Daily Mail disse che la linea politica che Asquith propone è assolutamente indefinibile. E l'Evening Standard and Globe disse: «Noi non siamo dalla parte del suffragio femminile, ma è difficile immaginare qualcosa di più deplorevole dell'atteggiamento assunto dal governo». Se il governo sperava di ingannare qualcuno tirando disonestamente in ballo la possibilità di un emendamento a favore del suffragio femminile, restò deluso. Disse l'Evening News: «La notizia bomba di Asquith farà esplodere il Conciliation Bill in mille pezzi, perché è impossibile avere un suffragio maschile per gli uomini e una qualifica di proprietà per le donne. Vero, il Premier acconsente a demandare la questione del suffragio femminile alla Camera, ma lui sa bene quale sarà la decisione della Camera. Il Conciliation Bill aveva una chance, ma una misura più ampia non ne ha affatto». Ho citato questi editoriali per dimostrarvi come la nostra opinione dell'azione di governo fosse condivisa anche dalla stampa. Il suffragio universale in un paese dove le donne sono 1 milione più degli uomini, con ogni probabilità non sarà raggiunto nell'arco di vita dei lettori di questo libro. E la generosa offerta del governo di un possibile emendamento non era che un gratuito insulto ai suffragisti. La tregua, ovviamente, giunse bruscamente al termine. La WSPU scrisse al primo ministro dicendo che l'annuncio del governo aveva sollevato un'ondata di costernazione e che si era deciso di inviare una delegazione in rappresentanza della WSPU a far visita a lui e al cancelliere dello scacchiere la sera del 21 novembre. Lo scopo della delegazione era la richiesta di abbandono del progetto di legge sul suffragio maschile e l'introduzione al suo posto di un provvedimento del governo che concedesse uguale diritto di voto agli uomini e alle donne. Una lettera simile fu recapitata a Lloyd George. In sei precedenti circostanze critiche, la WSPU aveva richiesto un colloquio al signor Asquith e ogni volta era stato rifiutato. Questa volta il primo ministro rispose che aveva deciso di ricevere una delegazione delle varie organizzazioni suffragiste il 17 novembre, compresa la vostra associazione, se lo desiderate. La proposta era che ciascuna associazione nominasse quattro rappresentanti come membri della delegazione che sarebbe stata ricevuta dal primo ministro e dal cancelliere dello scacchiere. Nove organizzazioni suffragiste mandarono i loro rappresentanti all'incontro. Le nostre erano Christabel Pankhurst, la signorina Patty Clarence, Annie Kenney, Lady Constance Lytton ed Elizabeth Robbins. Christabel e la signora Lawrence parlarono a nome della WSPU. E non esitarono ad accusare i due ministri di avere volgarmente imbrogliato e falsamente illuso le donne. Asquith, nella sua replica alla delegazione, si risentì di tali imputazioni. Aveva mantenuto la promessa, insisté, in merito al Conciliation Bill. Era totalmente disposta a concedere le agevolazioni al progetto di legge, se le donne preferivano questo a una modifica del suo progetto di legge. Inoltre, negò di avere mai fatto un qualche nuovo annuncio. Addirittura nel 1908 aveva manifestatamente dichiarato che il governo riteneva suo sacro dovere portare avanti un progetto di legge sul suffragio maschile prima della fine della legislatura. Era vero che il governo non aveva preso quell'impegno in maniera vincolante ed era vero anche che fino a quel momento non era stato detto nulla di nuovo circa un progetto di legge sul suffragio maschile, ma non era stata una mancanza del governo. La crisi del veto dei Lord aveva temporaneamente messo da parte il progetto di legge. Quindi lui aveva semplicemente intenzione di mantenere la promessa fatta nel 1908 e anche la promessa riguardo alle agevolazioni da concedere alla Conciliation Bill. Era pronto a mantenere entrambe le promesse, ma sapeva bene che quelle promesse erano incompatibili, che mantenerle entrambe era impossibile, e Christabel glielo disse chiaro e tondo, coraggiosamente. Noi non siamo soddisfatte, lo avvertì, e il primo ministro replicò acidamente: Non mi aspetto certo di soddisfare voi. La reazione della WSPU fu immediata ed energica. Cappeggiate dalla signora Patty Clarence, le nostre donne si munirono di pietre e martelli e sfasciarono centinaia di finestre nelle sedi della Home Office, del Warren Foreign Office, del Board of Education, del Privy Council Office, del Board of Trade, del Treasury, del Somerset House, del National Liberal Club, di diversi uffici postali, dell'Old Banqueting Hall, della London and Southwestern Bank e di decine di altri edifici, tra cui le abitazioni di Lord Aldale e di John Burns. Furono arrestate 220 donne e circa 150 di loro mandate in carcere con pene variabili da una settimana a 2 mesi. Un gesto di protesta merita una citazione particolare per via della sua natura profetica. A dicembre la signorina Emily Wildington Davinson fu arrestata per aver tentato di appiccare il fuoco a una cassetta delle lettere dell'ufficio postale di Parliament Street. In tribunale la signorina Davinson disse di averlo fatto in segno di protesta contro la slealtà del governo e al fine di chiedere che il suffragio femminile venisse inserito nel discorso del re. La protesta aveva intenzioni serie, disse, e quindi io ho adottato un metodo serio. Nelle passate agitazioni per le riforme, il passo successivo alla rottura di finestre era la provocazione di incendi, con l'obiettivo di attirare l'attenzione dei privati cittadini sul fatto che la questione delle riforme riguardava loro quanto tanto le donne. Per il suo gesto, la signorina Davison subì la severa condanna di 6 mesi di reclusione. Ecco come stavano le cose quando rientrai dal mio viaggio americano. Mi confortava sapere che le mie compagne detenute stavano ricevendo un trattamento migliore rispetto alle prime prigioniere. Dall'inizio del 1910 erano state garantite alcune concessioni ed era stata in parte riconosciuta la natura politica dei nostri reati. Durante il breve periodo in cui furono applicate queste piccole concessioni al regime detentivo, lo sciopero della fame fu abbandonato e il carcere fu liberato dal suo orrore peggiore, l'alimentazione forzata. La situazione restava comunque abbastanza brutta e, da quel che potevo vedere, sarebbe anche peggiorata. Eravamo ormai al punto che la semplice solidarietà dei parlamentari, per quanto sincera, non era più di alcuna utilità. Nel ricordare questo aspetto alle nostre associate, nel primo discorso che feci dopo essere rientrate in Inghilterra, chiesi loro di prepararsi all'azione. Se il suffragio femminile non fosse stato inserito nel prossimo discorso del re, avremmo dovuto rendere assolutamente impossibile al governo toccare l'argomento del diritto di voto. Il discorso del re, quando il Parlamento si riunì nel febbraio del 1912, fece solo generiche allusioni al tema del diritto di voto. Fu dichiarato che sarebbero state avanzate alcune proposte per l'emendamento della legge in relazione al diritto di voto e alla registrazione degli elettori. Da ciò si poteva dedurre che il governo stava per presentare un progetto di legge sul suffragio maschile o un progetto per l'abolizione del voto multiplo, che era stato suggerito in certi ambienti come sostituto del progetto sul suffragio maschile. Non fu fatta alcuna precisa dichiarazione sugli intenti del governo e l'intera questione del diritto di voto fu avvolta da una nuvola di incertezza. Egg Gardner, membro unionista del Conciliation Committee, ottenne il terzo posto nella votazione e annunciò che avrebbe ripresentato il Conciliation Bill. La cosa ci interessò poco, perché sapendo che le sue prospettive di successo erano state distrutte, avevamo chiuso per sempre con il Conciliation Bill. Soltanto una misura del governo avrebbe potuto dare soddisfazioni alla WSPU, perché ormai era chiarissimo che solo un provvedimento del governo avrebbe avuto qualche possibilità di passare alla Camera dei Comuni. Con suprema fede, o meglio, con una deplorevole mancanza di visione politica, la Women's Liberal Federation e la National Union of Women's Suffrage Societies si dichiararono pienamente fiduciose nel proposto emendamento a un progetto di legge sul suffragio maschile, ma noi sapevamo quanto vana fosse quella speranza. Avevamo constatato che l'unica strada da prendere era quella della più decisa opposizione a qualsiasi misura sul suffragio che non includesse come parte integrante la parità di uomini e donne nel diritto di voto. Il 16 febbraio organizzammo una riunione di benvenuto per alcune detenute rilasciate che erano state in galera per 2 o 3 mesi per aver rotto le finestre nella dimostrazione che aveva avuto luogo nel passato novembre. In questa riunione analizzammo la situazione con la massima trasparenza e stabilimmo un piano d'azione che ritenevamo sufficientemente forte, tanto da impedire al governo di far avanzare il suo minaccioso progetto di legge sul diritto di voto. Io dissi nell'occasione: "Non vogliamo usare armi spropositate. Se l'argomento delle pietre, il venerando argomento politico ufficiale, è sufficiente, allora non useremo mai argomenti più forti. E questa è l'arma e l'argomento che useremo la prossima volta. E quindi dico a tutte le volontarie della nostra manifestazione, preparatevi a usare quell'argomento. Mi sto occupando di organizzare la dimostrazione e quello è l'argomento che intenderò usare. Non lo userò per ragioni sentimentali, lo userò perché è il più facile e il più immediatamente comprensibile. Perché le donne dovrebbero andare alla piazza del Parlamento ed essere malmenate e insultate? È ancora più importante produrre meno risultati di quando tiravamo le pietre. Ci abbiamo provato abbastanza a lungo, ci siamo esposte per anni agli insulti e alle aggressioni. Le donne si sono rovinate la salute, le donne hanno perso la vita. Non ci sarebbe importato se ce l'avessimo fatta. Ma non ce l'abbiamo fatta e rompendo i vetri abbiamo compiuto maggiori progressi senza farci male rispetto a quando lasciavamo che fossero loro a romperci le ossa. In fondo, la vita della donna, la sua salute, le sue membra non valgono più di qualche pezzo di vetro? Su questo non c'è alcun dubbio, ma la cosa più importante di tutte, non è forse vero che la rottura dei vetri procura maggiori effetti sul governo? Se stai combattendo una battaglia, sarà quella a dettare la tua scelta delle armi. Bene, allora vediamo se questa volta basteranno le pietre. Non penso che per noi ci sia il bisogno di armarsi come hanno fatto le donne cinesi, ma ci sono donne pronte a farlo se dovesse risultare necessario. In questa organizzazione noi non perdiamo la testa. Facciamo solo tutto quello che siamo costretti a fare per vincere e ci prepariamo a mettere in scena la prossima manifestazione di protesta, con la piena fiducia che questa campagna, inaugurata dalle amiche che stasera siamo qui a onorare, alla prossima occasione si dimostrerà efficace. Da quando la militanza ha preso la forma della distruzione della proprietà, la gente in generale, sia in Inghilterra sia all'estero, ha espresso una certa curiosità, mettendo in logica connessione le finestre rotte, le cassette della posta incendiate e altre cose del genere con il voto. Solo una carenza di prospettiva storica può giustificare tale curiosità. Perché ogni conquista di libertà politica da parte degli uomini è stata segnata dalla violenza e dalla distruzione della proprietà pubblica. Solitamente la conquista è stata segnata dalla guerra, che è considerata gloriosa. Talvolta è stata segnata dalle sommosse, che sono ritenute meno gloriose, ma sono quantomeno efficaci. Il mio discorso che ho appena citato probabilmente suonerà al lettore come un invito alla violenza e alle azioni illegali, cose di regola e in circostanze normali alquanto imperdonabili. Bene, voglio richiamare l'attenzione del lettore su quella che è, in questo senso, una coincidenza piuttosto singolare. Nell'esatto momento in cui io stavo tenendo questo discorso, avvertendo il mio uditorio della necessità politica di una rivolta fisica, un membro responsabile del governo in un'altra sala, in un'altra città, diceva al suo pubblico praticamente la stessa cosa. Questo ministro del gabinetto, il Right Honorable C.E.J. Hobhouse, rivolgendosi ai convenuti di un'assemblea antisuffragista nella sua circoscrizione di Bristol, disse che il movimento suffragista non era una questione politica, perché i suoi sostenitori non erano riusciti a dimostrare che dietro il movimento esisteva una grande richiesta pubblica. Dichiarò che nel caso della richiesta di suffragio non c'è stato quel tipo di sollevamento popolare emotivo che si era presentato al castello di Nottingham nel 1832 o alle cancellate di Hyde Park nel 1867. Non c'è stata una grande ebollizione di sentimento popolare. Il sollevamento popolare emotivo a cui alludeva il signor Hobhouse consisteva nel bruciare completamente il castello dell'antisuffragista Duca di Newcastle e il castello di Colwick, residenza di campagna di un altro leader dell'opposizione contro il progetto di legge sul diritto di voto. I militanti dell'epoca, uomini, non selezionarono edifici disabitati a cui dare fuoco, incendiarono tutte e due queste residenze storiche sopra la testa dei rispettivi proprietari. Tant'è vero che la moglie del padrone del castello di Colwick morì in seguito allo shock riportato in quell'occasione. Non vennero effettuati arresti, nessun uomo andò in prigione. Al contrario, il re convocò il premier e pregò i ministri Wyke, favorevoli al progetto di legge sul voto, di non dimettersi e lasciò intendere che questo fosse anche il volere dei lord che avevano respinto il progetto di legge. La storia d'Inghilterra di Molesworth dice: queste dichiarazioni furono assolutamente necessarie. Il pericolo era imminente e i ministri lo sapevano e fecero tutto ciò che era in loro potere per tranquillizzare la gente e per assicurare che il progetto di legge era solo rimandato e non definitivamente cancellato. Per un po' la gente ci credette, ma perse in breve la pazienza e, vedendo i segnali di un rinnovato attivismo da parte degli antisuffragisti, tornò ad essere aggressiva. Bristol, la città in cui Hobhouse tenne il suo discorso, fu messa a ferro e fuoco. I militanti riformatori incendiarono la nuova prigione, i caselli, il palazzo del vescovo, entrambi i lati di Queen Square, tra cui la Mansion House, gli uffici dell'Agenzia delle Dogane, diversi magazzini e altre proprietà private, per un valore complessivo di oltre 100.000 sterline. Fu per effetto di tali violenze e nel timore di altre violenze che il progetto di riforma fu accelerato in Parlamento e divenne legge nel giugno del 1832. La nostra manifestazione, assai moderata in confronto alle agitazioni politiche degli uomini inglesi, fu annunciata per il 4 marzo e l'annuncio bastò a creare un serio allarme politico. Sir William Biles comunicò che avrebbe chiesto al segretario di Stato per gli affari interni se aveva fatto attenzione al discorso della signora Pankhurst di venerdì scorso, in cui si incitava apertamente ed enfaticamente l'auditorio a compiere gesti violenti e a distruggere le proprietà, e si minacciava l'uso di armi da fuoco qualora le pietre non si fossero dimostrate abbastanza efficaci, e quali misure pensava di prendere per difendere la società da queste esplosioni di illegalità. La domanda fu puntualmente posta. E il segretario di Stato replicò che la sua attenzione era stata richiamata sul discorso, ma che per il momento, nell'interesse pubblico, era preferibile non dire nulla più di questo. Qualsiasi preparativo la polizia stesse facendo per impedire la manifestazione fallì, perché come al solito fummo abili a calcolare esattamente quello che la polizia avrebbe fatto, mentre loro erano del tutto incapaci di calcolare cosa avremmo fatto noi. Avevamo pianificato una dimostrazione per il 4 marzo e l'avevamo annunciata, ma quest'altra non l'annunciammo. Nel tardo pomeriggio di venerdì 1 marzo andai in taxi, accompagnata dalla segretaria generale della WSPU, la signora Took, e da altre associate al numero 10 di Downing Street, residenza ufficiale del primo ministro. Erano esattamente le 5 e mezza quando scendemmo dal taxi e scagliammo i sassi, quattro in tutto contro i vetri delle finestre. Come ci aspettavamo, fummo immediatamente arrestate e condotte alla stazione di polizia di Cannon Row. L'ora successiva sarebbe ricordata a lungo, a Londra. A intervalli di 15 minuti, staffette di donne che si erano offerte volontarie per la dimostrazione fecero il loro lavoro. Per primi vennero frantumati i vetri di Haymarket Piccadilly, cosa che colse di sorpresa e allarmò tanto i pedoni quanto la polizia. Le donne furono arrestate in gran numero e tutti pensarono che questo avrebbe chiuso la faccenda. Ma prima che le esclamazioni dei turbati abitanti e degli scoraggiati negozianti si fossero spente, prima che la polizia avesse raggiunto la stazione con le sue prigioniere, il rumore di vetri rotti e la pioggia di schegge ricominciarono, questa volta ai due lati di Regent Street e allo Strand. Seguì un furibondo afflusso di polizia e gente comune sulla seconda scena della dimostrazione. Mentre la loro attenzione era rivolta a quello che stava succedendo in questo quartiere, la terza staffetta di donne cominciò a spaccare le finestre di Oxford Circus e Bond Street. La dimostrazione terminò per quel giorno alle 6:30 con la frantumazione di molte finestre sullo Strand. Il Daily Mail diede questo esplicito resoconto della dimostrazione. Da ogni parte delle affollate e illuminatissime strade veniva il fracasso dei vetri frantumati. La gente si è ritrovata con le schegge delle finestre che arrivavano dai lati. Poi ci fu all'improvviso un altro frastuono davanti, dall'altra parte della strada, dietro, dappertutto. I commessi dei negozi scappavano di corsa sui marciapiedi, il traffico si è bloccato, i poliziotti saltavano da una parte all'altra. Nel giro di 5 minuti le strade si sono trasformate in una processione di tanti gruppi agitati, ciascuno attorno a una donna demolitrice che veniva presa in custodia e portata alla più vicina stazione di polizia. Nel frattempo, il quartiere dei negozi londinese era sprofondato in un'improvvisa luce crepuscolare. Le tapparelle venivano abbassate in fretta e furia, lo sferragliare degli anelli delle tende che si chiudevano arrivava da ogni parte. Furono velocemente montate le guardie agli alberghi e ai negozi e qualsiasi signora non accompagnata che si trovava in zona, specialmente se portava una borsetta, diventava una pericolosa sospettata. Nello stesso orario in cui si svolgeva questa dimostrazione di protesta a Scotland Yard ci si riuniva per decidere cosa fare per arginare la rottura delle finestre durante la manifestazione del lunedì successivo. Ma noi non avevamo annunciato l'orario della protesta del 4 marzo. Nel mio discorso avevo semplicemente invitato le donne a radunarsi a Parliament Square la sera del 4 marzo e loro avevano accettato l'invito. Il Daily Telegraph disse: alle 6 i dintorni della Camera del Parlamento si trovavano già in uno stato d'assedio. I negozianti in quasi tutti i casi avevano sprangato i loro locali, avevano tolto la merce dalle vetrine e si erano preparati al peggio. Pochi minuti prima delle 6, un robusto schieramento di polizia, stimabile in circa 3.000 agenti, si era appostato a Parliament Square, a Whitehall e nelle strade adiacenti, e ampie scorte si erano radunate a Westminster Hall e a Scotland Yard. Alle 8:30 Whitehall era stippata da un estremo all'altro di polizia e comuni cittadini. Poliziotti a cavallo trottavano su e giù per Whitehall, tenendo sempre in movimento la gente. Non c'era alcun segnale di pericolo. La dimostrazione aveva avuto luogo in mattinata, quando un centinaio di donne erano arrivate a piedi a Knightsbridge e camminando da sole lungo le strade avevano demolito quasi ogni finestra davanti a cui erano passate. Colta di sorpresa, la polizia aveva arrestato tutte le donne che era riuscita ad afferrare, ma la maggior parte di loro era scappata. Per le azioni di quei 2 giorni, qualcosa come 200 suffragette furono portate alle varie stazioni di polizia e per giorni la lunga processione di donne sfilò davanti alle corti dei tribunali. Gli sgomenti magistrati si trovarono ad affrontare non solo le già note rivoltose, ma molte facce nuove. In alcuni casi donne, i cui nomi, come quello della compositrice Ethel Smith, erano famosi in tutta Europa. Queste donne, una volta chiamate in giudizio, resero lucide e brillanti deposizioni sulla propria posizione e sulle proprie motivazioni, ma i magistrati non sono educati per esaminare le motivazioni. Sono istruiti per pensare solo in termini di leggi e per lo più di leggi che proteggono la proprietà. Le loro orecchie non sono sintonizzate per ascoltare parole come quelle dette da una delle prigioniere. Ci abbiamo provato con tutti i mezzi, cortei e raduni, che si sono rivelati del tutto inutili. Abbiamo tentato quelle dimostrazioni di protesta e alla fine siamo arrivati a rompere le finestre. Io vorrei averne rotte di più. Non sono minimamente pentita. Le nostre donne vivono una condizione assai peggiore di quella dei minatori che scioperano. Ho visto le vedove lottare per poter crescere i propri figli. Solo 2 su 5 sono arruolabili. Che bene può fare un paese come il nostro? L'Inghilterra è assolutamente in declino. Voi conoscete solo un punto di vista ed è quello degli uomini. E anche se gli uomini hanno fatto tutto quello che potevano, non possono andare lontano senza le donne e il punto di vista delle donne. Noi crediamo che la confusione ormai sia troppo orribile per tenere tutto sotto controllo. I minatori di carbone avevano intrapreso al tempo uno sciopero tremendo e il governo, anziché arrestarne i capi, stava cercando di venire a patti con loro. Ricordai questo fatto al magistrato e gli dissi che quello che avevano fatto le donne era una bazzecola rispetto alla violenza dei minatori. Gli dissi poi: spero che la nostra dimostrazione di protesta servirà a dare prova al governo che l'agitazione delle donne sta andando avanti. Altrimenti, se mi manderete in carcere, continuerò a mostrare che le donne che aiutano a pagare gli stipendi dei ministri del gabinetto e anche il vostro, signore, dovranno avere voce in capitolo nel fare le leggi a cui devono obbedire. Fui condannata a 2 mesi di reclusione. Altre subirono varie condanne da 1 settimana a 2 mesi. Mentre coloro che erano accusate di aver rotto finestre per un valore al di sopra delle 5 sterline furono rimandate a processo dinanzi a tribunali superiori. Furono messe in galera in custodia preventiva e quando l'ultima di noi fu mandata dietro le sbarre, tristi, non solo Holloway, ma altre 3 prigioni femminili furono tassate per provvedere a così tante detenute in più. Per molte di noi fu una carcerazione burrascosa. Molte delle donne avevano ricevuto in aggiunta una condanna al carcere duro e ciò significa che i privilegi accordati precedentemente alle suffragette in quanto prigioniere politiche furono annullati. Le donne adottarono lo sciopero della fame in segno di protesta, ma non appena mi fu accennato che i privilegi sarebbero stati reinseriti, consigliai di cessare lo sciopero. Le detenute in custodia preventiva chiesero di lasciare che facesse attività fisica insieme a loro e non avendo avuto alcuna risposta distrussero le finestre delle loro celle. Le altre detenute suffragiste, sentendo il rumore dei vetri rotti e il canto della Marsigliese, anche loro mandarono in frantumi le finestre. Erano finiti i tempi in cui le suffragette sottostavano docilmente alla disciplina del carcere. E così passarono i primi giorni della mia detenzione.